crush this. Sommas pagli perché con me non ce n'è. Se mi vuoi mettere fuori tuo amico vieni con me. Ti porto nella mia zona, il posto più bello che c'è. Altro che gangsta ma video qui motherfucker smoker. Ed io non faccio rasta boy, non basta boy. Non sto qui di boy ma la mano impasta boy. E se mi trovi messo male non mi passa poi. Mi fissi male con quegli occhi di mi cazzo poi. Rockstar ma in onda in TV e chi mi ascolta segue l'onda e lo tira su, ricorda. Io sono chi svolta a casa vostra. Inietto la merda ai vostri figli in formato busta. Contro la gente che mi toglie l'ossigeno. Smoke, smoke, nigga smoke. Ogni errore che mi trovo è un errore che rifarò. Io mi sbatto con un beat, questo era per le miss. Ancora a 28 anni si trassano come teen. Un uccello contro 100 passere mi sembra un film. Baby look for me, venite a prendermi. Dimmi dove cazzo ti pensi, huh? Tu vuoi chiedermi di contenermi, huh? Io vi metto a fuoco la scena, è il mio gioco stasera e faccio fuori perdenti. Dimmi dove cazzo ti pensi, huh? Tu vuoi chiedermi di contenermi, huh? Io vi metto a fuoco la scena, è il mio gioco stasera e faccio fuori perdenti. Fate bene o chiuso, io della gente abuso. Sfrutto persone fino all'osso e poi nemmeno mi scuso. Col tuo soldo annuso, polverine più chic. Eppure se vi ho deluso resto affuso con i miei cugini. Sto in un ring, all'angolo sinistro ci sono tutti i nemici che nel corso degli anni mi colleziono. Nel destro resto da solo, del resto sono nato solo. E non resto a mani alle mani finché non rimango solo. Hey, è un vicino che coltiva l'erba. Sarà meglio di avere accanto il vicino di erba. Faccio casino e sono le 11:30. Gridi mazzine dal piano affacciato dalla finestra. Dillo che non mi sopporti. Dillo che ai miei amici sogni di vederli morti. Da quando ti han fatto la macchina nuova da giorni. Da quando il portone te l'abbiamo sfondato a culo. Oh ragazzi, fermi, fermi. Io non ci provo. Oh, fermi, stavo prendendo persona. Fermi, fermi. Dimmi dove cazzo ti pensi, huh? Tu vuoi chiedermi di contenermi, huh? Io vi metto a fuoco la scena, è il mio gioco stasera e faccio fuori perdenti. Dimmi dove cazzo ti pensi, huh? Tu vuoi chiedermi di contenermi, huh? Io vi metto a fuoco la scena, è il mio gioco stasera e faccio fuori perdenti.